Effetto Mondo. I think Putin is smart, tough. I think he sees that he's not faced with a serious adversary here. I don't think he's worried about Donald Trump. Giulia Crivelli, buongiorno, ciao. Ciao Alessio, questa era la voce di John Bolton, sì, che è l'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, licenziato dallo stesso Trump. Adesso il 23 di giugno, quindi martedì prossimo, dovrebbe uscire, anzi il famoso, sì, libro, usiamo il condizionale, dovrebbe uscire questo libro di Bolton, che però la Casa Bianca sta cercando di fermare, sta cercando di fermarne la pubblicazione. È la notizia di tutti i quotidiani americani. Questa era un'intervista che Bolton ha dato al network ABC. Il Wall Street Journal, per esempio, titola il libro di Bolton diventa un boomerang per la Casa Bianca. Tra le tante rivelazioni di questo libro ci sono quelle che riguardano Putin. Qui in questo breve audio Bolton dice: Putin non ha paura di Trump, lo considera comunque un uomo di poche conoscenze in fatto di geopolitica e sicuramente di come funziona la Russia. Ma ci sono anche rivelazioni, e su questo titolano Washington Post e New York Times, sul fatto che, e qui veramente c'è quasi un'ironia nella storia recente, Trump avrebbe cercato l'aiuto di Xi Jinping, che adesso naturalmente invece da lui è accusato di aver portato in America la cosiddetta Kung Flu, la chiamava fino a poco tempo fa, cioè l'influenza, la Kung influenza. Quindi però avrebbe invece in passato cercato l'aiuto di Xi per una rielezione. Giulia, non so se ci sono ancora code americane nella tua rassegna stampa, se no so che ci sono molte notizie anche per quanto riguarda l'Europa, eh. Sì, guarda, giusto perché parliamo appunto di amministrazione Trump, il Financial Times ha un'apertura diversa che riguarda la presa di posizione molto chiara, molto netta di Steve Mnuchin, che è il segretario al Tesoro, che sta conducendo queste trattative con l'Unione Europea, e ieri ha di fatto interrotto queste negoziazioni, che naturalmente avvengono via internet, per quanto riguarda le digital taxes o web taxes, chiamiamole come vogliamo, minacciando appunto che se veramente alcuni paesi europei dovessero proseguire su questa strada della tassazione ai colossi americani, ci sarebbero sicuramente delle conseguenze molto gravi per l'Europa. Non è ancora chiaro, si inserisce tutto in questo scenario di fair trade o non tanto fair, quindi di negoziazioni sul terreno del commercio internazionale. Sappiamo già quanto questo abbia visto opposte le posizioni di Cina e Stati Uniti, per tornare appunto alla Cina. Giulia, in Germania invece in prima pagina va il nuovo focolaio in Reno-Vestfalia, che si dice? Sì, se vuoi sentiamo l'audio, perché mi ha molto colpito, tornando al tema che so che ti è caro, ma giustamente è così, della scuola. In tutti i servizi in cui si parla di questo nuovo focolaio con 700 nuove persone infettate, un'immediata chiusura delle scuole, appunto sembra che la cosa più grave non sia tanto, perché per ora queste persone risultano positive al coronavirus ma non sono malati gravi, non presentano dei sintomi gravi. La cosa che colpisce di più è che siano state subito chiuse le scuole, quindi subito l'effetto negativo per chi aveva sperato di continuare in qualche modo l'anno scolastico. Sentiamo se vuoi questo brevissimo audio da una TV tedesca. Dicke Luft in Nordrhein-Westfalen. Eltern und Schüler in Gütersloh sind sauer auf den Fleischriesen Tönnies. Wegen 650 Corona-Infizierten in dem Schlachthof sind Schulen und Kitas wieder zu. Beh, insomma, sì, Eltern and Schulen, quindi i genitori dei ragazzi e ragazzi sono appunto così, hanno avuto questa notizia che ha di nuovo sconvolto le loro vite, perché sono state chiuse tutte le scuole e tutti gli asili. E quindi è poi naturalmente messa in quarantena molte persone che in qualche modo erano entrate in contatto con le persone che lavorano in questa fabbrica di lavorazione delle carni, bovine e suine. Insomma, quello che si può dire è che lì in Germania si chiude la scuola perché c'è c'è un focolaio, in Italia non si è riaperta, anche nelle regioni dove non c'era nessun focolaio. Comunque lasciamo perdere. Invece so che sì, i tedeschi no, si stanno, diciamo, sono contenti per il risultato della loro app di tracciamento, perché ha raggiunto un buon livello. Sì, le cifre variano un po', non ci sono ancora cifre ufficiali, però secondo la Bild, per esempio, in pochi giorni si è già arrivati oltre ai 6 milioni di persone che l'hanno scaricata, e proprio nei giorni scorsi anche il Ministro della Salute aveva detto sarà lo strumento più importante per un'eventuale seconda ondata del virus, e molti giornali dicono vediamo, appunto, mettiamola subito alla prova con questa. Poi naturalmente bisogna vedere se nel Nord Reno-Vestfalia quante persone l'hanno scaricata, però si potrebbe subito vedere se nel caso di questi nuovi focolai l'app funziona, può essere uno strumento utile. Per contro, nel Regno Unito oggi alcuni giornali, ma già nei giorni scorsi, titolavano che il lancio di questo, dell'equivalente britannico della nostra Immuni e dell'app tedesca, invece è stato rimandato. Quindi anche in questo tante differenze nelle strategie dei diversi paesi. Comunque non è vero quello che ha detto Conte, che siamo stati i primi in Europa a scaricarla, ad averla l'app, o forse per qualche giorno, perché mi sembra di capire che la Germania, insomma, è appaiata, anzi a livello di download ci hanno già abbondantemente superato. Che altro, Giulia? Ma se vuoi, sempre per restare nel Regno Unito, su questo tema importantissimo, perché diciamo sempre i bambini sono il nostro futuro, non soltanto per chi li ha, ma perché comunque sono il futuro di qualsiasi paese, e nel Regno Unito si riaccende il dibattito, come dicevi, sulla mancata riapertura delle scuole. Ieri ha detto la sua, è il titolo del Daily Telegraph, anche il principe Carlo, dice i giovani face devastation, cioè hanno uno scenario di devastazione psicologica, logica, personale, anche della loro istruzione, e c'è stato anche un appello, e questo è il titolo del Times, di 1600 pediatri che hanno proprio scritto una lettera aperta a Johnson dicendo guardate che così state proprio, la parola usata è scar, cioè una cicatrice, queste cicatrici resteranno nel percorso scolastico di questi bambini e di questi ragazzi per molti anni. E se vuoi, ultima notazione per restare nel grande tema dell'istruzione, sì. Oxford, e questo è il titolo del Guardian, ha ufficializzato che verrà rimossa dall'ingresso dell'università, una delle più prestigiose e importanti insieme a Cambridge, la statua di Cecil Rhodes, che morì nel Novecento, all'inizio del Novecento. La statua è lì dal 1911, ma siccome è stato, ha dato anche il nome all'ex Rhodesia, ora parte Zambia e parte Zimbabwe, ed è stato secondo molti il teorico dell'apartheid in Sudafrica, quindi questa statua in realtà è dal 2005 che ci sono dei comitati che ne chiedono la rimozione. Quindi questa furia iconoclasta, insomma, ha colpito anche il Regno Unito. Invece in California verrà rimossa una statua di Cristoforo Colombo, ne dà notizia al New York Times. Insomma, questo è un altro tema legato naturalmente al tentativo di rimuovere i simboli delle disuguaglianze, diciamo così. Poi ognuno può avere, insomma, la sua opinione se questo sia la strada più efficace, però tant'è, Oxford l'ha deciso. Grazie Giulia, è tutto per oggi, con Filippo Reggi, regia, Anita Panizza in assistenza, in diretta, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi, buona giornata, ciao.